in primo piano. È giovedì 5 maggio, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata al decreto sviluppo che oggi verrà approvato dal Consiglio dei Ministri. Illecito l'eccesso di controlli, fisco semplificato in 20 misure. C'è anche un'indiscrezione, un'anticipazione su Fiat. Ecco il piano per le banche americane. L'anticipazione del documento riservato coi dettagli del deal da 7,6 miliardi per conquistare Chrysler, anticipato oggi dal Sole per l'appunto. Come detto, la vicenda del non mostreremo le foto di Bin Laden ucciso è l'apertura del Corriere. Non mostrerò la foto di Bin Laden, è la frase di Obama. Obama, non darò le foto di Bin Laden, apre così Repubblica. Per la stampa, la figlia di Osama l'hanno ucciso a sangue freddo. Il Messaggero, no alle foto di Bin Laden. Per il Manifesto c'è il titolo su questo delitto, l'osceno del delitto. Queste alcune aperture, vedremo le altre più avanti. Intanto voglio dare le due segnalazioni prima della pubblicità. La prima l'ho trovata sia su Repubblica che su Libero. Entrambi i quotidiani, la Pubblica, la pagina 24. Una vicenda giudiziaria a Milano che fa discutere moltissimo già dal titolo. Parcheggia in divieto di sosta, condannata per omicidio. Beh, voi direte, è incredibile. Questo è il titolo di Repubblica. Sentite Libero, il parcheggio in divieto di sosta, l'accusa concorso in omicidio. Sembra assurda la vicenda, ma l'accusa fatta da un giudice del GUP, Luigi Varanelli, a Milano, che ha inflitto alla donna che ha parcheggiato in divieto di sosta 6 mesi di carcere con la condizionale per concorso in omicidio. Perché? Perché avendo parcheggiato lì ha impedito la visuale di un motociclista che è sbucato dall'incrocio, è stato investito da un'altra macchina che passava ed è morto sul colpo. Secondo il giudice, con questo parcheggio selvaggio, questa donna 24enne in pratica ha concorso appunto nell'omicidio, nell'incidente fatale del motociclista. Sentenza a Milano, l'auto impediva la visuale, per colpa sua è stato investito un motociclista. È una applicazione del codice che il presidente dell'ACI, intervistato da Repubblica, Enrico Gelpi, dice è troppo rigorosa. Certo, l'automobilista ha l'obbligo di assicurarsi che dal parcheggio e dal luogo scelto non possa derivare pericolo per l'incolumità delle persone, ma da qui al concorso in omicidio credo ce ne corre. L'interpretazione data dal giudice è un po' forzata. Certo, questa donna farà ricorso attraverso il suo legale, per ora ha detto esprimo solo grande dolore per il ragazzo che è morto nell'incidente, ma la vicenda è abbastanza paradossale, abbastanza incredibile. Insomma, un giudice ha condannato la proprietaria della vettura che ha parcheggiato in modo selvaggio, ignorando l'incolumità delle persone. La seconda segnalazione è una segnalazione che per la verità vari ascoltatori mi avevano già fatto anche via mail, ed è questa: Sardegna, la stangata dei traghetti. È a pagina 26 del Corriere della Sera, ma anche l'Unità ci dedica una pagina, vi dedica una pagina 21. La Sardegna s'allontana, raddoppiano le tariffe delle navi per l'isola. Qual è l'accusa, soprattutto della regione Sardegna, dei consumatori? È l'accusa nei confronti degli armatori che fanno la spola tra la penisola e la Sardegna di avere fatto una sorta di cartello per aumentare i prezzi in maniera esorbitante dei passaggi in nave. Per quest'estate ovviamente si prevedono molte, molte polemiche. Il presidente della regione Sardegna Cappellacci cosa ha fatto? Ha promesso l'arrivo di una flotta della regione. A partire dal 15 maggio metteremo a disposizione le prenotazioni online. Perché? Per contrastare quello che il presidente Cappellacci definisce appunto una sorta di cartello tra le compagnie. I consumatori le definiscono una pirateria rivolta all'antitrust, gli armatori si difendono, incolpano il caro carburante, i servizi portuali. Sta di fatto che c'è anche sullo sfondo, fanno notare sia Corriere che l'Unità, il fatto che la Tirrenia è la vera la compagnia pubblica, vale a dire la vera battaglia, perché ora, dopo aver calmierato le tariffe per anni, questa compagnia pubblica è in liquidazione e dunque l'accusa dei consumatori, dico, visto che è in liquidazione la Tirrenia, le altre compagnie, gli armatori privati hanno fatto una sorta di cartello e hanno aumentato in maniera spropositata le tariffe. Il presidente della regione Sardegna risponde: faremo una flotta regionale. A partire dal 15 maggio metteremo a disposizione biglietti a prezzi sicuramente più bassi. Sia l'Unità che il Corriere mettono a confronto i biglietti dell'anno scorso, degli altri anni e quelli di quest'anno. Effettivamente i rincari sono stati del 70, del 64%, chi del 132% nella tratta Genova-Porto Torres, del 55%. Insomma, una media di rincaro almeno del 60% dall'anno scorso rispetto a quest'anno nei prezzi dei biglietti. Dunque, qualcosa di strano c'è. E allora la vicenda di Osama Bin Laden, l'uccisione di Osama Bin Laden ancora campeggia sulle prime pagine dei giornali, è il tema del nostro sondaggio. Torniamo su questa vicenda per chiedervi: secondo voi sarebbe giusto vedere la foto di Osama, il cadavere di Osama? Perché il presidente americano Obama ha detto non lo faremo. Sono immagini atroci. In pratica il leader della Casa Bianca, come ricorda Daniela Roveda da Los Angeles sul Sole 24 Ore a pagina 13, dice: i rischi sarebbero maggiori dei benefici, e dunque il titolo Obama: non pubblicheremo le foto, anche se circolano già, e il Sole le pubblica come tutti i giornali, le foto delle altre vittime, due vittime, il volto sfigurato, il volto della morte proprio. Di questo raid dei Navy SEALs in Pakistan. Chi sono? Due guardie del corpo di Osama? Beh, si presume. Alan Dershowitz, celebre legale, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 13, è un errore legale occultare i dettagli di un caso simile, errori giudiziari commessi che ci perseguiteranno per anni, forse decenni a venire. Certo, il dibattito è aperto, è il tema su cui vi interroghiamo nel nostro sondaggio. Votate su radio24.it, vi chiediamo proprio questo: voi le fareste vedere? È giusto far vedere queste foto? Da una parte c'è il diritto anche all'informazione, anche a dissipare tutti quei dubbi che sono fioriti, come non c'è una foto del cadavere, tanto che il giornale si pone questa problematica: ormai non crediamo a niente se non vediamo, che poi qualcuno potrebbe dire anche se vedessimo la foto sorgerebbero anche ulteriori dubbi. Dall'altra parte appunto il rischio anche di quella foto in cui si dice molto molto dura, con i colpi che sono arrivati alla testa, dunque potete immaginare le conseguenze, e dunque questo potrebbe suscitare delle ritorsioni mediatiche non indifferenti per mostrare una foto del genere. C'è anche un altro già. Allora, la figlia di Osama Bin Laden attacca gli americani, dice: altro che resistenza, è stato prima catturato e poi giustiziato letteralmente, mio padre ucciso dopo la cattura. Ci si interroga anche su questo. Per esempio vi voglio segnalare un editoriale di Ferdinando Camon, uno scrittore intellettuale, a pagina 2 dell'Avvenire, che si chiede: ma giustizia è fatta? Le uccisioni non pacificano, solo le redenzioni possono farlo. Camon dice: certo, il disastro dell'11 settembre è un disastro etimologicamente non si può neanche misurare, immenso, più di 3.000 persone morte nel crollo delle due torri di New York, ma altre che poi hanno la vita turbata per generazioni future. L'omicidio e la strage sono crimini che durano nel futuro, ci sono orfani, vedovi delle due torri, gente finita nell'alcol, nella droga, che commettono reati. Questi reati sono compresi nel super reato di chi ha commesso la strage. Ma fatta questa premessa, Camon si interroga: e questa però la giustizia è fatta? Essere andati lì, scovare il covo di Osama Bin Laden e finirlo, terminarlo con colpi alla testa? Il giornale risponde di sì. Stenio Solinas, a pagina 3, ripropone la foto di Mussolini e la Petacci appesi a testa in giù a Piazzale Loreto a Milano. Anche l'Italia democratica è fondata su una esecuzione. Questo è il titolo del giornale. Il dibattito aperto, ci interrogheremo con l'ospite alle 8.30 sul fatto se sia giusto oppure no vedere questa foto di Osama Bin Laden con il leader americano Obama, che ha detto non la vedrete. Oh, la politica italiana invece, ieri è passata questa mozione PDL e Lega sul tema della Libia. Tra l'altro alle 8:20 vi segnalo avremo il generale Cabigiosu, generale dell'esercito, consulente della NATO, che ci spiegherà anche cosa vuol dire per esempio quella data, quella deadline che la Lega ha voluto in questa mozione trovata d'accordo, alla fine si è trovata la cosiddetta quadra col PDL. In questa mozione uno dei punti è quello di porre una data certa, una fine, un termine a questa azione in Libia. Chiederemo a lui se è possibile prevedere tutto questo. Vabbè, la Lega ce l'ha sempre duro, titola pagina 3 la Padania. Così è tornato il Bossi guerriero, no? Quello dell'idea della Lega, che ce l'ha duro, è passata la linea della Lega. Anche se il tema politico più sviluppato dai giornali oggi è quello, lo spunto dato dall'intervista, la partecipazione di Berlusconi ieri a Porta, nel quale ha parlato per la prima volta facendo un nome della sua successione. Se mi tiro indietro c'è Tremonti. Pagina 16 del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri racconta di questa intervista. La giornata politica ruota attorno a questo lancio di Berlusconi, lancia al ministro per la successione, poi dice anche non c'è spazio per meno tasse, ma comunque il tema forte politico è quello, anche se subito si sono scatenati tutti i retroscena della politica sui giornali. Intanto la frase esatta non è proprio "dopo di me c'è Tremonti", la frase esatta è questa: vedremo se mi ricandiderò, se sarà necessario per il centrodestra non mi tirerò indietro, se invece verranno fuori altre personalità, ne abbiamo diverse, Tremonti in primis, che possono suscitare consenso elettorale, in quel caso non avrei difficoltà a lasciare ad altri il compito molto gravoso del governo. Insomma, come sottolinea Ugo Magri a pagina 10 della Stampa, ci sono tanti se in questa frase, non è proprio un'investitura. Anche Francesco Verderami sul Corriere a pagina 13 dice l'obiettivo qual era? Era ricucire e rassicurare il superministro. Si sono venuti ancora a cena, si sono visti ancora a cena Tremonti e Berlusconi, c'è stato un disgelo, anche se i toni della cena, racconta Verderami, erano toni sempre molto duri, di rinfacciarsi alcuni atteggiamenti sbagliati. Berlusconi, che ha contestato al superministro una mancanza di collegialità, Tremonti si doleva con Berlusconi per l'immagine lesa, un dialogo che aveva seguito un canovaccio noto. E insomma, quindi l'idea in realtà, secondo Francesco Verderami, che era un segnale, il segnale che Berlusconi doveva dare per allentare un po' le tensioni con Tremonti, ma non è una vera investitura. Se davvero Tremonti aspirasse a diventare il candidato premier alle elezioni, dovrebbe prima presentarmi la riforma del fisco. Questa frase attribuita da Verderami a Berlusconi, detta ovviamente forse ad alcuni amici, ad alcuni vicini, ad alcune persone a lui molto vicine. Quindi non una vera investitura, ma una mossa tattica. Sentite come per il giornale è talmente una mossa tattica, ad Alberto Signore sul giornale a pagina 2, Giulio mi ha detto che farà lo sciopero bianco. Frase di Berlusconi, sempre attribuita, forse l'ha detta. Insomma, Tremonti è pronto a non firmare più un decreto, compreso quello sullo sviluppo, a meno che io non faccia una dichiarazione pubblica in cui lo indico come mio successore. E secondo lui devo smorzare i toni e gli entusiasmi di Alfano. Vuole una presa di posizione forte. Ecco, sarebbe nata così questa dichiarazione pubblica per smorzare il rischio che Tremonti volesse fare lo sciopero bianco addirittura. E poi, oggi forse è il gran giorno del rimpasto di governo, una pantomima che dura da giorni e ce ne siamo già occupati. I responsabili sono tutti lì, con le mani sudate, il fiato corto, il battito al cuore, perché forse responsabili, come titola la Stampa, finalmente è il giorno delle poltrone. Oggi c'è un Consiglio dei Ministri in cui ci si occupa di cose ben più importanti, ma forse anche, di questo rimpasto. E allora, mistero fitto sul destino di Pionati. I più sicuri di farcela sono la Polidori e Cesario. Testa o croce pare tra Milo e Belcastro, uno dei due. Calearo forse avrà solo un incarico come consigliere economico del Premier. Vanno forte Misiti e la Melchiorra in pole position. Poi c'è la Lega. La Lega pare in questo accordo, la quadra trovata, forse la Lega beneficerà per questo di due sottosegretari, Brigandì e Fogliato. Questi sono i nomi che si fanno. Verranno nominati oggi? Come sempre non resta che attendere e vedremo. Dall'altra parte, a sinistra, invece, non sono tempi molto molto allegri. Sinistra più credibile o resterà minoranza? Questo l'ha detto il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in un incontro ieri alla Treccani. E su questo si interroga la sinistra, c'è un'intervista a Fioroni che dice a Repubblica sono alleati come Di Pietro che ci fanno perdere credibilità. Il Fatto Quotidiano a pagina 4, la crisi è nell'opposizione. Il Fatto Quotidiano dedica l'apertura, PD, ma quale opposizione? Questo è il titolo di prima pagina. Insomma, il concetto è che se c'è qualche maretta nel centrodestra, la sinistra, l'idea dai giornali che stia messa anche ben peggio. A proposito di politica, vi segnalo il comizio di Beppe Grillo. Ieri a Milano ha detto, lo leggo dai giornali, dal Manifesto, ma anche sull'Unità, pagina 22-23, pillole di Beppe Grillo. Questi nani di 74 anni senza capelli e senza prostata, che futuro ci prospettano? Ma poi basta ridere su Berlusconi, non mandiamolo via per il bunga bunga, mica si può mandare via un puttaniere per eccesso di puttane, ma per quello che è, quello che ha fatto e che fa. La Moratti, una signora che ha per marito un petroliere, mette a disposizione 20 milioni di euro, chiunque con 20 milioni di euro può diventare sindaco. Albertini ha indebitato la città per 1 miliardo e 750 milioni, ora lo manteniamo in Europa a 30.000 euro al mese. E ancora la Moratti che dice, una signora che sembra dire ma sono veramente io il sindaco? Pisapia, una brava persona ma non ce la fa, un vecchio signore. Hanno già perso questi della sinistra. La politica secondo Beppe Grillo. Marina Berlusconi contro De Benedetti, attaccò la norma per Mondadori, ora la usa. Marina Berlusconi fa un'intervista, un'intera pagina con Daniele Manca sul Corriere della Sera, pagina 21, parla a tutto campo, riassumo due o tre battute, poi vi invito alla lettura. Intanto a De Benedetti, rischiate di staccare un bel assegno a lui dopo, visto che ne arriva il verdetto d'appello per la causa civile legata alla contesa su Mondadori. Dice, non ho nulla da dire Marina Berlusconi, ma ho molto da dire su De Benedetti e sui suoi giornali che da 20 anni hanno un solo obiettivo, distruggere il Presidente del Consiglio attraverso un linciaggio sistematico. Poi sentite cosa dice, ci sono persone, i parenti prossimi degli invidiosi di mio padre, gente che pur avendo tratto molti vantaggi dal rapporto con lui si lascia schiacciare da un complesso di inferiorità che paradossalmente porta a detestare chi l'ha sostenuto, una vera e propria patologia chiamata sindrome rancorosa del beneficato. Ma mi faccia un nome, ai primi posti Gianfranco Fini e nell'elenco politici e non uomini ma anche donne. E poi Marina Berlusconi non dice nulla di Saviano, su tutto quello che avevo da dire l'ho già detto, mentre parla del caso Ruby, uno scandalo perché semplicemente non esiste nulla, il vero scandalo è l'inchiesta, un'inchiesta farsa, quello che conta è il processo sui giornali in TV, queste carte non contengono uno straccio di prova ma sono utili per costruire il contesto, in parole povere, per infamare mio padre con la macchina del fango. Beh, ma chiede Daniele Manca, di fronte a certi racconti non ha provato un minimo di imbarazzo? Mai, nemmeno per un istante. Ciò che mi ha disgustato è ciò che fanno a mio padre. Ai nostri figli e nipoti non dovremo vergognarci di raccontare le cene di un presidente del Consiglio, ma dovremo vergognarci di raccontare lo scempio compiuto da leggi e regole per cercare di farlo fuori, con un vero e proprio assedio. Infine, in politica non ho mai neppure pensato un secondo a entrare in politica. Marina Berlusconi parla a tutto campo su politica, economia, parla anche di Cesare Geronzi in questa intervista che vi segnalo a pagina 21 del Corriere della Sera. Allora, entriamo sui temi economici. Come detto, il Sole 24 Ore anticipa da 3 giorni, oggi è il giorno dell'approvazione del decreto sviluppo, in Consiglio dei Ministri. A pagina 3 del Sole trovate tutte le delucidazioni con le imprese, le piccole e medie imprese, l'edilizia, le famiglie, i professionisti, la scuola, il tema case, le banche. Insomma, ci sono tutti questi temi in campo. Marco Mobile, Dino Pesole, fisco più semplice in 20 mosse, riduzione del peso della burocrazia per cittadini e imprese, snellimento delle procedure per le opere pubbliche, rilancio del piano casa, ma anche sgravi per le imprese che assumono al sud. Per le famiglie in difficoltà col pagamento dei mutui ci sarà la possibilità di rinegoziare il peso delle rate con la banca, e aumenta poi la soglia del tasso di interesse usurario. Tra l'altro verrà inserito anche un nuovo reato, l'eccesso di un illecito. L'eccesso di controlli sarà un illecito. Se il controllo opprime l'impresa, scatta l'illecito disciplinare per il dipendente pubblico. Questa è la novità del decreto sviluppo. E per opprimere il contribuente, il controllo amministrativo sotto forma di accesso effettuato da qualsiasi autorità competente dovrà rispettare poche e chiare regole. Dovrà essere unificato, avere cadenza semestrale, una durata massima di 15 giorni. E non solo. Per un nuovo bonton degli accessi, la Guardia di Finanza d'ora in poi opererà in borghese quando farà i controlli. Insomma, tante novità importanti in questo decreto sviluppo, mentre i giornali hanno anticipato anche oggi quello che era un giallo, vale a dire il fatto che il governo sta lavorando a una manovra da 7 miliardi in 2 anni che vedrà la luce in giugno, fine maggio-giugno. Il governo però col sottosegretario Casero ha detto nessuna manovra correttiva, ma misure per 7-8 miliardi. Segnalo anche che La Stampa, con il suo direttore Mario Calabresi, intervista Paolo Scaroni, amministratore delegato di Eni, che domani verrà riconfermata la guida per un altro triennio. Il futuro è ancora nel gas e l'Italia ha le carte giuste, così Scaroni, che dice lo stop al nucleare va a vantaggio di chi ha puntato sul metano. La cosa più rilevante sono le aspettative. L'Europa nei prossimi 10 anni, per quel che riguarda le aspettative, i programmi atomici verranno rallentati, fermati, e penso che il gas sarà la fonte energetica sostitutiva. Parla anche della vicenda in Libia, Scaroni. Abbiamo sentito troppi discorsi senza costrutto, troppe chiacchiere da bar. Anche se ci sarà un nuovo governo in Libia, siamo fiduciosi di mantenere le nostre posizioni. E sulla guerra, invece, la domanda del direttore Calabresi: che ne pensa di questa guerra e dell'atteggiamento americano e europeo verso Gheddafi? Risponde Scaroni: io sono stato l'unico italiano che non ha partecipato alla festa delle tende berbere a Roma, ma mi sento di dire che di Gheddafi nel mondo ce ne sono tanti e che in situazioni analoghe si è scelto di non intervenire. Certo, vedo difficile un futuro per lui in Libia. Così Scaroni. Vabbè, prima della chiusura voglio segnalare, per quel che riguarda lo sport, che cosa? Beh, oggi c'è un Gene Gnocchi in forma con il suo rompipallone. Dopo aver perso Liga e Champions, Mourinho ha deciso il suo futuro. Farà il segretario del PD. E il titolo di apertura della Gazzetta è: Guardiola, l'allenatore del Barcellona, all'Inter si può. Pare che Moratti sia in agguato. Clamoroso, viene titolato della Gazzetta. Beh, sarebbe certamente clamoroso dopo Mourinho, dopo Benitez, dopo Leonardo. Pare, secondo la Gazzetta, che se il tecnico lascerà il Barça c'è un piano per portarlo in nerazzurro. Guardiola all'Inter si può. Chissà che ne penseranno gli interisti, da Mourinho a Guardiola, colui che ha giustiziato sportivamente Mourinho. E poi vabbè, c'è anche Berlusconi che ha fatto un'intervista, ha parlato dello scudetto. Ah, c'è lo scudetto in arrivo. Ah, oggi è il 5 maggio, mi fa sapere Peter Bescapè. Sportivamente anche quella è una data significativa. Berlusconi che ha parlato, questo scudetto, vabbè, mi aiuterà al voto. Insomma, parliamo di sport. E poi ha detto: ho vinto più di Santiago Bernabeu, dovrebbero intitolarmi lo stadio. Da stadio San Siro, non stadio Giuseppe Meazza, stadio Silvio Berlusconi. Il giornale radio.